avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. È una fantastica mattina questa in cui improvvisamente, mentre andava la sigla, il monitor mi è diventato orizzontale. Cioè quello che vedevo scritto normalmente, secondo la mia abitudine, si è orizzontalizzato. Probabilmente ho appoggiato il libro in mano in qualche tasto della tastiera. E ora devo leggere tenendo la testa storta così. Ma è un segno, probabilmente è un segno. Se si è orizzontalizzato il mio orizzonte, evidentemente questa mattina è giusto che parli ciò di cui volevo parlare. Lo spunto ulteriore me l'ha dato questa mattina la notizia che ho sentito al nostro giornale radio. Il suicidio del playboy, dell'uomo splendido, dell'uomo vincitore, del colui che dettava mode e costumi, colui che era invidiato, semplicemente per il fatto che temeva che gli venisse l'Alzheimer, o gli sta venendo l'Alzheimer, quindi temeva una decadenza. Temeva soprattutto, penso, immagino, se mai fosse possibile entrare nell'ineffabile disegno di un suicidio, di perdere la memoria. Quanto è importante la nostra memoria? La nostra memoria è importantissima, abbiamo spesso discusso quanto in realtà la nostra vita sia legata ai nostri ricordi. Noi smettiamo di vivere quando l'ultimo dei nostri ricordi ci abbandona. Finché avremo un ricordo significa che noi saremo ancora vivi. Ricordate la leggenda, il racconto postumo di Filippo Martinez dei Cammellini nella memoria? Un console si accorge che notte dopo notte dei piccoli cammellini, pacchetto dopo pacchetto, li stanno portando via tutti i ricordi. I ricordi delle scarpe nuove comprate a suo figlio, i ricordi del sorriso della moglie, alcuni ricordi legati a odori, alcuni ricordi legati a punti di vista, alcuni ricordi legati a suoni, a musica o sensazioni. Quando si rese conto che cammellini alla memoria stanno portando via la sua vita, si rende conto che stava per morire. Riuscendo a prendere uno dei cammellini, chiede quanto ha ancora da vivere. Beh, ecco, a vivere da un numero preciso di giorni, di ore e minuti. E infatti, allo scadere di quella data, al fatidico passaggio dell'ultimo cammellino dal suo orecchio, con l'ultimo ricordo, che è il ricordo dei cammellini, il console sarà morto. Ecco, senza tingere in maniera funerea questa stupenda mattina primaverile, però vorrei riflettere questa mattina quanto noi siamo legati ad alcuni ricordi che rimangono quasi sospesi in una zona liminare di non immediata percezione. Se richiamiamo alla mente i nostri ricordi, abbiamo subito delle cose fantastiche, delle cose che hanno un ruolo predominante nella traccia della nostra vita. La nostra vita è un tracciato. Cosa ricordiamo? Ah, ricordiamo bellissimo il giorno del mio matrimonio, oppure il giorno del mio divorzio, il giorno della prima comunione, diranno quelli più animati da spirito mistico, e altri ricorderanno la prima volta che ho fatto l'amore, il giorno terribile in cui ho avuto questo lutto tremendo, via dicendo, il giorno in cui mi sono laureato. E queste sono le pietre miliari della nostra esistenza, quelle che probabilmente sono più difficili da rimuovere. E poi invece la nostra vita è fatta di un insieme di tante sensazioni minime legate a attimi che il momento stesso in cui li viviamo l'abbiamo già messi in memoria. Probabilmente abbiamo un secondo livello di memoria, quella di questi ricordi che hanno costellato e danno senso e racchiudono in un suo specifico la nostra esistenza, ma che in realtà non sempre sono i primi che ci viene in mente di citare. Beh, qualcuno si è preso la briga invece di rimetterli tutti in fila, e proprio il momento che uno vi ricorderà certe sensazioni, dirà: beh, vedi, ora che ci penso, ora che me l'hai detto, proprio vero, questa cosa per me è stata importante. 800240024. Quando comincerete a capire ciò di cui parlo, vedrete che anche voi direte: ora che ci penso, e elencherete alcune boe apparentemente indifferenti, ma che in realtà segnano il senso profondo della vostra esistenza. Ma davvero tu usi libri che ami per sotto i piedi di un tavolo, per equilibrare un tavolo o altre cose turpi di questo tipo? Io i libri che amo li tengo con un'attenzione. Intanto odio chi fa gli angoli ai libri per tenere il segno. In fondo sono oggetti, ma sono oggetti su cui proiettiamo tante emozioni e sensazioni, e che quindi mi piace trattare bene, insomma. Yeah. Io ho risolto il mio problema intanto semplicemente girando il monitor e mettendolo verticale. Ora tutto è tornato normale. Chissà quale sarà la funzione per riportare alla normalità il monitor dello studio di Radio 24. Beh, dicevo, questi sono degli ascoltatori che mi hanno accusato di profonda irriverenza, di insanabile e detestabile blasfemia, solo per il fatto che io in certe fasi tendo a demolire il feticismo del libro. Il libro, secondo me, è un surrogato di buona coscienza accessoria, posticcia, che uno si porta dietro. Riempiono le case i libri per far vedere che loro sono degli intellettuali. Aprono sempre un libro in metropolitana per vedere che loro leggono, piuttosto che guardare il giornalino di Freppresso, sbirciare la persona che hanno avanti, che sono attività molto più interessanti e molto più varie. C'è tempo per i libri. Oppure parlano di libri, oppure fanno grandi trasmissioni soltanto sui libri, oppure si fanno dei grossi pipponi pensando che andare in una libreria significa stare in un posto fantastico e meraviglioso dove trovi soltanto persone a te consimili con le cui hai possibilità di fibrillare all'unisono. No, invece il libro, e me lo ricorda questa mattina l'autore del libro che fra un po' vi segnalerò, ha in realtà una sua vita che è fatta anche di una sensazione tattile e olfattiva. Questo è vero, questo non toglie nulla a quello che dico, quello che penso sul feticismo del libro, però ci sono dei ricordi della nostra vita legati agli aspetti olfattivi che giacciono dentro i libri. Io non so se già lo citai a questo microfono. Per me fondamentale era l'odore di Topolino Nuovo. Una nostra zia ci regalò l'abbonamento a Topolino, a me e mio fratello, fantastico. Ci arrivava il giovedì, quando gli altri bambini ce l'avevano il venerdì o il sabato, mi sembra che uscisse in edicola. Quindi un giorno prima avevo Topolino, ma soprattutto Topolino arrivava in cellofanato. Quindi l'aroma di Topolino rimaneva tutto chiuso, racchiuso, era come sottovuoto. Quando rompevi quel cellofan, sentiva in presente l'odore Topolino Nuovo. Ci facciamo delle grandi sniffate dentro Topolino e mio fratello, perché ha un odore fantastico. Non saprei descriverlo, ma era qualcosa legato non soltanto alla carta. Sembrava di risalire fino alle radici degli alberi che avevo composto con la carta. Poi improvvisamente la Mondadori cambiò tipo di edizione e Topolino venne annunciato come una grande rivoluzione, fatto con delle pagine lucide. Cambiò la grafica, cambiò la carta e cambiò anche l'odore di Topolino. E da allora smisi di leggere Topolino, perché aveva un altro odore. Magari era carta più ecologica, era carta migliore, o forse, visto che erano i detestabili anni del rovinio del nostro pianeta, in realtà era una carta molto più sintetica di quella antica che io di cui amavo il profumo. E quindi la carta di Topolino Nuovo è uno dei tanti ricordi, mi piacerebbe che riaffiorassero improvvisamente nell'estremo dei miei momenti. La mia memoria io la conserverò con mio figlio. Quando avrò un figlio sarà lui la mia memoria storica e il mio passaggio all'eterno, diciamo. La memoria è quella che abbiamo dentro, quella che ci siamo fatti grazie a quello che ci hanno tramandato i nostri familiari, le persone noi care e quelle che ci siamo fatti informandoci, ma informandoci veramente. La memoria di oggi verrà conservata esattamente come è stato fino ad oggi, cioè con lo scritto, e che lo scritto sia in grado di conservare la memoria di quei fatti che vanno a riguardare l'essenza dell'uomo e non quelli che vanno a suscitare un vago e superficiale senso di curiosità. Michele Smargiassi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Michele Smargiassi è un giornalista di Repubblica, autore di vari libri di cui a volte abbiamo anche noi parlato, come ad esempio Un'autentica bugia, La fotografia, il vero e il falso, che è un libro abbastanza profetico su quello di cui abbiamo parlato giorni fa riguardo alle possibili interpretazioni delle foto di Bin Laden. Invece questa mattina a parlare del suo ultimo libro, Ora che ci penso, La storia dimenticata delle cose quotidiane, da Lai Editore. Non so se hai sentito, Michele, parte della mia introduzione. Ho cercato di personalizzare e di trasportare nella percezione collettiva quello che tu hai scritto nel tuo libro. Alcuni passaggi, alcuni oggetti, alcuni momenti, alcune sensazioni a cui non diamo probabilmente una grande importanza nel momento in cui ci contaminiamo, ci entriamo in contatto, che in realtà poi se ci diamo uno sguardo all'indietro e se qualcuno ce lo fa ricordare, sono le piccole boe che costellano i momenti di vuoto della nostra memoria tra i grandi eventi, fra i momenti epocali. Ho capito male? No, è esattamente così, anzi, io devo dire, Sono felice intanto di accogliere nel club degli sniffatori di libri, è un club molto più ampio di quello che potrebbe sembrare, perché ci vergogniamo di ammetterlo. Io faccio parte e ho fatto il mio coming out olfattivo della tribù di quelli che prima di comprare un libro infilano il naso fra le pagine. E che oggi si assomigliano molti. Io, guarda, avevo in metropolitana il tuo libro venendo qua, proprio avevo sotto il capitolo dello sniffamento provato a sniffarlo. Ero un po', diciamo, inquinato dall'alito pestilenziale del vecchietto accanto a me, però non è più l'odore di una volta quello dei libri. Non è più l'odore, il mio libro mi ha deluso dal punto di vista appunto olfattivo. Sì, ma non ha un grande odore, è un bel libro ma non ha un grande odore. Non si può. Ecco, io credo che siamo circondati da oggetti che sono oggetti umani, oggetti che sono stati costruiti dall'uomo, fatti da noi, in cui abbiamo depositato un pezzo della nostra cultura, della nostra storia, e poi ce ne siamo dimenticati, al punto che adesso li consideriamo come degli oggetti naturali, degli alberi, dei sassi senza storia, e in questa maniera abbiamo alienato quello che ci abbiamo messo dentro, abbiamo perso qualche cosa. Ecco, io, senza fare troppa prosopopea, perché questo è un libro in realtà di intrattenimento, è un libro che racconta storie, credo, spero, leggibile da parte di tutti, insomma, ma ho cercato di bucare questa crosta di indifferenza, di distrazione, cercando di fare della distrazione il mio strumento di ricerca. Cioè io mi sono messo in un atteggiamento di vigile distrazione nei confronti del mondo, in modo che incontrando degli oggetti me ne lascio sorprendere, cerco di chiedermi cosa ci fanno lì. E questa è una ricerca che a me appassiona particolarmente, tu la chiami il viaggio nell'infraordinario, sono quelle che chiamo le fessure nascoste nella realtà, nella quale infilarcisi a volte permette di aprire degli universi fantastici. Un'altra cosa che mi ha colpito, in ora che ci penso, è la deriva della sensazione luminosa. Io sono molto legato all'illuminazione dei luoghi. A casa mia ho delle battaglie quotidiane con il resto della mia famiglia nel creare un habitat luminoso a mio piacimento, spengo le luci, ne accendo altre, via dicendo. Tu hai notato che a un certo punto il cambiare, giusto, in nome della civiltà, in nome dell'ecologia, in nome del rispetto dell'ambiente, del tipo di lampadina ha cambiato ferocemente il calore dell'illuminazione delle nostre case. Sì, ho cercato di raccontare che cosa succede quando si prende una decisione virtuosa, che è quella di abolire delle fonti di luce esose, sprecone, con altre fonti di luce sicuramente più virtuose e risparmiose, ma più brutte. Ho raccontato la resistenza degli architetti, dei ristoratori nel far mangiare certe bistecche alla luce fluorescente, ecco, assumono un pallore imbarazzante certe volte i cibi, come ben sanno i fotografi di cibo, è difficilissimo fare apparire appetitoso un cibo, insomma un piatto. Ecco, ho cercato di raccontare, ma questo vale credo per tante altre cose, e poi, appunto, dipende sotto che luce noi vediamo le cose. Illuminare le cose vuol dire comprenderle in una maniera o nell'altra, gettare un po' di luce sulle cose che rimangono nell'oscurità è un modo per capirle meglio. Per esempio, questa della luce è l'esempio forse più metaforico, ma insomma, se vedo un mazzolino sul guardrail bisogna che io mi chieda chi ce l'ha messo e perché, non dandolo per scontato, insomma, frugo nei miei cassetti e non trovo più la carta carbone, perché, che cosa serviva, mi ha accompagnato nella mia vita, mi ha dato delle cose, perché perdendolo ho perso qualcosa. Ecco, e sono le domande che mi sono fatto. Diciamo che ogni oggetto si ramifica una narrazione, una storia, un approfondimento possibile. I mazzetti di fiori ai bordi delle strade segnano che qualcuno è morto lì. Ce n'è uno adesso, prima dello Stadio Olimpico qua a Roma, che è una vera cattedrale. Penso sia un ragazzo latinoamericano, almeno dalle scritte leggo. Ma gli hanno costruito intorno a praticamente una chiesa con fiori, luci, cartelli, striscioni, via dicendo. È una maniera di segnare luoghi che apparentemente sarebbero indifferenti per noi che passiamo, dal fatto che lì è accaduto qualcosa, lì si è spenta una vita. Per ognuno dei familiari, degli amici, delle persone legate affettivamente a chi lì è morto, quello è un posto fatale, e quindi questa sorta di sacralizzazione individuale deve essere contaminata anche agli altri. E giustamente tu dici, ci sono delle storie che occorre vedere, occorre raccontare. Sentiamo Michele da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Vediamo se ci riesce a seguire in questa apparentemente folle ricerca di impercettibili derive rispetto al nostro quotidiano. Ma per quanto mi riguarda, l'odore addirittura mi muove dei sentimenti, nel senso che riguardo i libri, io in cantina dei vecchi libri degli anni Ottanta, erano dei libri game, libri in cui dovevi scegliere dei percorsi, lanciare dei dadi, quindi dovevi costruirti, era una specie di gioco di ruolo, e ancora adesso in cantina vado, li apro, sento l'odore, ma questo odore non mi ricorda tanto i momenti in cui giocavo con questo libro, ma addirittura mi ricordava quando provavo i primi amori verso una persona in particolare, quasi come se io, usando quel libro, riaffiorassero quei sentimenti verso quelle, diciamo, ragazzine che io... Guardi, l'olfatto lancia degli ami pericolosissimi, può boccare qualunque cosa, aprendo un libro e sentendone appunto l'odore. Una parentesi, i libri lasciati in cantina hanno un additivo rispetto all'odore primario, un po' perché sono compressi, un po' per prendere un po' quell'odorino tipico delle cantine, di umidiccio e di chiuso, e quindi probabilmente l'odore è ancora più esaltato in questo contorno qua. È chiaro che sentendo l'odore del libro si ricorda quello che lei pensava in quel momento. Pensi all'Enciclopedia dei 15, se li ricorda, quei volumi che ognuno aveva un colore diverso, anche quelli hanno un odore. Quanto assieme ai 15 noi abbiamo avuto morbilli, pertossi, varicelle, perché era la tipica lettura, quando si stava a letto fermi, immobilizzati, si aprivano le enciclopedie. Allora le enciclopedie erano la parte che ci apriva verso il mondo, quando ancora non avevamo YouTube e non avevamo la rete. Quindi vedere ogni tanto in delle bancarelle abbandonati o nei mercatini la collezione completa dei 15 con tutti quei dorsi dal colore degradante mi fa pensare a me almeno le malattie da ragazzo, non so per lei la stessa cosa. Sì, no, io sento proprio, riaffiora proprio quel sentimento che avevo verso poi una ragazzina in particolare, come se venisse fuori un qualcosa che è stato sotterrato nel tempo, ed è incredibile come io riesco a provare quasi la stessa sensazione, per assurdo. Quindi il fantasma della ragazzina è chiuso dentro il libro dei giochi che sta in cantina? Eh sì, anche per questa ragazzina poi è sparita di colpo, per cui io non l'ho neanche più trovata, dopo, cioè, a distanza di anni ancora quasi la penso, nonostante io mi stia quasi per sposare. Beh, però mi rimane sempre questa cosa legata. Mi consideri anche questo matrimonio alla luce di queste nostalgie del passato, se vuole un consiglio? Eh sì. Vedo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La nostra protesi visuale, il desktop. Il gatto. Ecco, il re incontrastato dei desktop, il dominatore dei monitor, il personaggio di gran lunga più presente su tutti gli schermi. Il campione su cui mi appoggio è sufficiente per esserne certo. Sono i 3600 lettori di Repubblica.it che accettarono di mostrare a tutti il mio desktop. L'immagine fissa che ciascuno di loro aveva scelto come sfondo per le lunghe ore di lavoro o divertimento, in compagnia di un mouse e di una tastiera. I gatti sbaragliano i cani, ma anche i tramonti sul mare, le cime innevate, i prati fioriti, le vedute pittoresche. Curioso. Acquistiamo l'attrezzo più tecnologico oggi disponibile e lo tappezziamo di cliché visuali da vecchia cartolina. 800240024, datevi una svegliata questa mattina, chi non ha ricordi è già morto, chi non può raccontare quali sono i piccoli impercettibili oggetti a cui sono attaccati i propri ricordi, significa che già non sta vivendo più una vita. Quello che avete ascoltato è una riflessione di Michele Smargiassi, autore di Ora che ci penso, giornalista di Repubblica, La storia dimenticata, le cose quotidiane, da Lai Editore, e riflette giustamente sul fatto che noi appoggiamo questo bisogno nascosto, inconsapevole, di tenere in memoria alcuni momenti fatali della nostra esistenza, anche minimali, non i grandi eventi. Nessuno mette mai la foto del proprio matrimonio, se non i 15 giorni che seguono la luna di miele sul proprio desktop. Poi ci si mette il gattino, ci si mettono le cose minimali, ci si mettono alcuni piccoli oggettini che ci devono dare tenerezza e senso forse di familiarità, ricomposizione di odori, di sapori, di sensazioni. Il gattino è morbido, il gattino fa le fusa, il gattino in fondo è tenero, è sempre sempre sorridente, sembra sempre darci un senso di pacata e placida tranquillità. Io cosa ho sul mio desktop? Sul mio desktop ho il disegno di una mia antica foto con una storia molto particolare che mi ha fatto un pittore Melogman e mi ha regalato. Accanto una dondina di bronzo che mi ha regalato un altro scultore. Alessandro Chiappini ha, in questo momento mi fa vedere il suo desktop, un autostoppista con un'ascia in mano che vuol fermare una macchina probabilmente per fare una strage. In Tonti, che è un fotografo e un poeta, ad alcune sagome legate a sue foto. Mi scrive su Facebook Maria Nazzarin, che riguardo all'appunto che abbiamo fatto sul il cambio di calore con il cambio di lampadine, dice che detesta le luci bianche da obitorio, dice da anni non va nei ristoranti con le luci al neon, da decenni a casa sua c'è soltanto qualche lampada e molte candele. Una signora romantica può permettersi di tenere candele a casa, evidentemente a chi le sorveglia, se lo facessi io ci sarebbe un rogolo, morrebbero bruciati ragazzi, bielorusse, mogli e cose varie. Alessandro, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Niente, volevo dare il mio piccolo contributo rispetto a una cosa che mi è piaciuto, che lei ha ricordato, appunto i 15, l'enciclopedia 15. A me questa cosa ricorda molto appunto l'odore della carta patinata di questi volumi, ruvidi all'esterno, plastificati ma ruvidi, e soprattutto ricorda appunto le malattie, no? Perché io ho 48 anni, quando ero ragazzino noi eravamo sempre obbligati a stare almeno una settimana a letto per ogni banale influenza. O se oggi si vaccina non c'è più questa fantastica lussuria delle malattie esentematiche che erano favolose, erano dei momenti strappati al rigore scolastico, era bello, tutti ti coccolavano, avevi le bollicine, ti mettevano il borotalco mentolato, era una cosa favolosa. Bellissima, e oggi i nostri ragazzi questo se lo perdono, perché quando si ammalano stanno sul divano, spippolano, stanno su Facebook oppure fanno altre cose. Noi invece avevamo la mamma che la mattina ci portava il tè, rigorosamente il tè con i biscotti, le Marie, e così via, la merenda, eccetera eccetera, quelli quadrati maggiora si intingevano dentro, bellissimi, buonissimi, anzi facevano effettivamente, no, non erano buonissimi, ma in quel momento erano eccezionali perché avevano tutto una cosa particolare, un odore particolare, ma soprattutto era strappare il tempo al tempo del dovere. E con licità, anzi con senso di vittimismo, che tuo verino è deturpato da quelle bollicine, quindi era fantastico. Benissimo. Giovanni invece, Giovanni. Un'altra sensazione tattile odorosa. Buongiorno Nicoletti, volevo parlarle innanzitutto per lo schermo control freccina. Sì, lo so, ma ormai mi piace tenere il computer verticale, è una cosa favolosa. sembra trasformare il bieco aziendale in un iPad gigantesco, è meraviglioso. E poi volevo parlarle degli amplificatori mochettati e delle chitarre di compensato con cui ho iniziato la mia, diciamo, piccola carriera musicale, che attualmente insomma sono passato a strumenti più virtuosi. Sì, c'era quell'odorino di valvola bruciata dai vecchi amplificatori che era fantastico. Di transistor, transistor, non proprio, esatto. E sa, ormai io mi posso permettere la valvola bruciata, perché un transistor era meno costoso e sicuramente meno efficiente, però a risuonare, a riprovare a prendere in mano questa strumentazione un po' malandata mi riporta alla mente i primi concertini, sa, quelle cose. Beh, io dirò una cosa ancora più triste, se vuole, che non so se c'è passato, la batteria fatta con i fustini del detersivo. Ma io mi ricordo una delle prime prove a 15 anni organizzata con le pentole addirittura. Vabbè, quindi ognuno ha i suoi miserrimi ricordi, sì, certo, non c'era altro a quel tempo. Sentiamo allora l'autore del libro, ora ci penso, Michele Smargiassi. Noi ci permettiamo ogni tanto qualche divagazione, ma sull'intuizione che hai avuto rispetto al desktop come luogo della memoria digitalizzata e quindi che ci assolve dal fatto che in qualche maniera ci vergogniamo di queste piccole cose, vorremmo tenere in memoria. Io sono felice che abbiate scelto questo brano, perché un po' c'è una metafora dei motivi che mi hanno spinto a indagare, no, la storia delle cose invisibili. Sì, noi abbiamo messo il gatto dentro il desktop come Alice di Lewis Carroll lo mise dietro lo specchio, perché poi il desktop è lo specchio osmotico del nostro contatto con la realtà, no? E quindi è come se noi riuscissimo a vedere le cose soltanto se le riusciamo a proiettare in qualche immagine, in qualche... Il fatto diventa uno stregato astratto il nostro ricordo una volta che sta dietro lo specchio. Lei si è chiesto perché perché affidiamo all'odorato il compito di ricordarci le cose dell'infanzia? Ci sono queste mazze prustiane, no? Ci sono anche dei motivi neurologici, no? Uno dice che l'area dell'olfatto è vicina all'area della memoria, nel cervello, va bene, ci sono anche queste cose qui, ma io credo che sia come un senso sussidiario che chiamiamo in soccorso, perché il senso principale della memoria, che è la vista, incameriamo una quantità di cose, visuale nella memoria, è inquinata, è disturbata dalle immagini che ci circondano, a cui abbiamo delegato, e non è una novità, lo facciamo da quando esiste, almeno da quando esiste la fotografia, a cui abbiamo delegato la nostra protesi di memoria. Quindi la vista è diventata un senso inservibile per la memoria, perché ormai è svuotato dalle immagini esterne. E invece l'odorato no, non abbiamo nessun registratore di odori. Però c'è un grande pudore, anche nel libro Ci penso, quando si accenna ai ricordi olfattivi, c'è una sottolineatura sul fatto che i ricordi legati all'olfatto sono ricordi ammantati comunque da un senso di pudicizia. Perché? Perché l'olfatto è anche il senso più intrusivo, è anche quello legato alle nostre sensazioni più profonde, di cui ci si deve anche in parte, secondo appunto il rigore imposto alla fanciullezza, in parte contenere e astenere. È il senso più maleducato, è il senso più vicino alle cose scatologiche, diciamo così. Quindi sì, è un senso di cui ci si deve vergognare, i filosofi l'hanno sempre messo in fondo alla classifica dei cinque sensi, no? Però invece è un senso che ha una capacità euristica fenomenale. Noi riusciamo a capire tantissime cose col naso, molte più di quanto non crediamo nella nostra supponenza di essere di animali superiori che non hanno più bisogno di questo senso degradato per fiutare la preda. Mi viene da pensare però, ecco, la generazione dei 45enni, 50enni, ancora una gamma abbastanza variegata e personalizzata di odori. Le generazioni che vengono dopo hanno in realtà una sorta di omologazione olfattiva, perché sì, da bambini si hanno le stesse cremine, noi eravamo al vecchio Fissan, ma oggi ci sono delle fantastiche maniere per asfaltare e coprire ogni odore dell'infanzia e della fanciullezza. Andando avanti negli anni, fra deodoranti ascellari, fra contenitivi viscerali, a un certo punto non abbiamo più gli odori, basta andare in una qualsiasi profumeria o in un supermercato nel bancone dedicato appunto ai cosmetici e ai deodoranti, si hanno tutti gli odori della nostra vita racchiusi in comode bombolette spray. Sì, però non è che l'abbiamo abbandonato, è ancora una porta d'ingresso, e io credo che il marketing lo abbia capito. Quando si entra al piano terra delle Gallerie Lafayette lo si capisce in maniera folgorante, ma io credo anche che molte puzze di margarina fritta fuori dai fast food non siano degli errori o dei filtri sbagliati negli impianti di depurazione, siano delle insegne olfattive che vengono proiettate all'esterno per catturarci, insomma. È quello che fa arrabbiare certi sindaci. Allora, il mio quartiere Prati di Roma oggi è mutato olfattivamente. L'odore del kebab ha superato l'odore del forno dell'alimentare sotto casa. Io amo quell'odore, i miei figli lo amano, quel buon odore di carne arrostita. Però la mappa olfattiva è cambiata. Probabilmente quella prima era rimasta immutata, non so, da quando è stato creato il quartiere, dagli inizi del Novecento fino al 1999, è rimasto tale quale. Poi dagli anni 2000 in poi è arrivato il kebab. È cambiato l'odore, c'è un odore di cipolla e di carne bianca arrostita, che è qualcosa che ricorda magari un souk, ricorda qualcosa di orientale, nulla a fare con il vecchio quartiere pensato da un architetto francese con grandi vie dove abitavano gli ufficiali del Regio Esercito. Sì, del resto però è cambiato anche il panorama visuale, è cambiato il panorama sonoro. Come mai ci dà più fastidio che cambi il panorama olfattivo? Forse perché l'odorato... No, a me non dà fastidio, a me piace la sovrapposizione. È un senso conservatore. Gli odori immigrati li sopportiamo meno che delle visioni immigrate o degli rumori immigrati, insomma. Forse io credo che ci sia anche un problema specifico dell'odorato come senso conservatore. Io sono per la sovrascrittura anche delle ideologie, si figuri quanto mi può dar fastidio la sovrascrittura olfattiva. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tables. 800 24 00 24. Stavo questa mattina parlando del libro di Michele Smargiassi, Ora che ci penso, la storia dimenticata, le cose quotidiane, che è un libro che mostra una varietà gamma di oggetti, di sensazioni, di punti di vista che costellano appunto la nostra memoria, fatta di una molto varia sinestesia, cioè capacità di percepire attraverso i sensi. Ricorda il maestro Manzi di Non è mai troppo tardi, che iniziò la sua carriera facendo a cazzotti con un galeotto per conquistarsi il diritto di insegnare in una scuola. Ricorda alcuni punti di vista interessanti, colpi d'occhio, ma vedo che l'attenzione del nostro pubblico si ferma sull'aspetto olfattivo, come se fosse la sensazione più forte che sia possibile ricongiungere ai grandi momenti della nostra esistenza. Giovanna. Buongiorno, sono molto felice di poter parlare con lei perché spesso sulla mia lunghezza d'onda. Io mi comincerei a preoccupare se fossi lei. Comunque andiamo avanti. Cani, perdoni, dica. No, mi comincerei a preoccupare se fossi lei. Infatti il suo cane già non è d'accordo. No, ha sentito la mia voce dal giardino. La salutano a loro modo. Loro il naso lo usano molto. Tutto, anche la lingua. Allora, tornando a noi, non riesco a non pensare sempre quando è estate. Io abito a Torino in una villetta. Spesso c'è l'incatramatura, ritorna esattamente a un momento di tantissimi anni fa, visto che sono già un po' tardona, quando mio nonno mi ha portata a comprarmi un orologino piccolo bianco, esco dal cancello, è una mattina d'estate e stavano incatramando. E ritorna esattamente indietro a quel momento, ma è inevitabile, qualunque cosa stia facendo, se c'è quell'odore, sono di nuovo a quel momento. Vivo molto di sensazioni odorose, come penso la maggior parte delle persone, ma forse tanti non ci fanno caso. Il vero eroe della nostra contemporaneità è l'incatramatore, sudato e coperto di catrame, che sfida la calura e la canicola per fare il lavoro che richiede il disagio massimo. Si può incatramare soltanto nelle ore di punta, quando il sole appunto picchia più forte e si bolle quel catrame e segna appunto l'odore delle nostre strade. Giulio. Sì, buongiorno. Come l'ascoltatrice precedente, anch'io vorrei raccontare del catrame che mi penetrava le narici quando ancora le traversine della ferrovia, per poterle conservare, perché erano in legno, venivano catramate. Certo. L'evocazione, quindi mi veniva evocato il viaggio, soprattutto d'estate, quando il calore lo faceva salire particolarmente, si sovrapponeva al canto della cicala nella stazioncina di campagna sperduta, del silenzio estivo rotto solo dallo sferragliare del treno che andava chissà dove. Adesso non si sente più quell'odore perché le traversine le hanno sostituite tutte col cemento. La cicala, invece che portare, come nei ricordi più classici, l'odore della calura, dell'intorpidimento degli uomini e dell'accoloramento delle femmine, come appunto dicevano i poeti di una volta, porta l'odore delle traversine. Penso che Michele Smargiassi possa essere soddisfatto che il punto fondamentale di tutto il suo libro, è quello dell'olfatto, è stato perfettamente colto dal nostro pubblico. A domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.